Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola, quinta e ultima favola della decima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Daniele Maffei. Perché i galli denunziavano la notte esser di gran lunga mezza passata, la signora umanamente impose a Cateruzza che con la bella favola ed enimma la decima notte terminasse. Ed ella, più desiderosa di dire che di tacere, alla sua favola in tal guisa diede cominciamento. Favola quinta. Rosolino da Pavia, omicida e ladro, vien preso dalla famiglia del podestà e messo alla tortura, nulla confessa. Indi vede l'innocente figliuolo tormentare e senza più martorio il padre confessa. Il pretore gli dona la vita e il bandiggia. Egli si fa eremita e salva l'anima sua. Quanto e qual sia l'ardente e tenace amore del padre verso il virtuoso e disciplinato figliuolo, non è alcun ch'abbia figliuoli che apertamente non lo conosca. Imperciò che egli non solamente si affatica di fargli quello che fa mistieri al viver suo, ma anche spesse volte mette a pericolo la vita e sparge il sangue per aggrandirlo e arricchirlo. E che questo sia il vero, dimostrerovelo con questa breve favoluzza ch'ora raccontarvi intendo, la quale, perciò che è più pietosa che dilettevole, penso vi sarà di non poco ammaestramento e dottrina. In Pavia, città della Lombardia nobile, sì, per lo literario studio, sì anco per esser sepolto in quella il santissimo corpo del venerabile divino Agostino, martello degli eretici, lume e chiarezza della religione cristiana, fu, già poco tempo fa, un uomo disleale, malvagio, omicida, ladro e ad ogni malfar disposto, e tutti Rosolino per nome lo chiamavano. E perché era ricco e capo di parte, molti lo seguitavano, e stando alla strada, or questo or quello, spogliava, rubava e uccideva. E per lo seguito grande che egli aveva, tutto il territorio fortemente il temeva, e avvenga che Rosolino avesse commessi molti errori, e contra lui fussero state porte molte querele, non di meno non era uomo che vi bastasse l'animo proseguirle, perciò che tanti erano i favori degli tristi e malvagi uomini che li querelanti abbandonavano le loro querele. Aveva Rosolino un solo figliuolo, il quale per natura era tutto contrario al padre, e teneva vita molto laudevole e santa. Egli più volte con dolci parole riprese il padre della sua triste e scelerata vita e dolcemente pregollo comai ponesse fine a tante sceleragini, dipingendogli i strabocchevoli pericoli ne quai continuamente viveva. Ma nel vero le ammonizioni sagge del figliuolo erano frustatorie e vane, perciò che maggiormente che prima egli attendeva al suo disonesto esercizio e altro non si udiva di giorno in giorno se non egli è stato spogliato il tale, egli è stato ucciso il tale. Perseverando adunque Rosolino nel suo fiero e bestiale proponimento e andando quotidianamente di mal in peggio, volse Iddio che fusse dagli sergenti del pretore preso e legato e a Pavia condotto. Ed essendo dal giudice del maleficio costituito, sfacciatamente negò il tutto, il che intendendo, il pretore ordinò che gli sergenti in ceppi con tenaci catene in prigione lo mettessero, dandogli solamente al giorno 3 unce di pane e 3 di acqua, e che fusse con ogni diligenza custodito. E quantunque fusse grandissima altercatione tra gli giudici, si doveano averlo per convenuto o no, pur dopo molto contrasto parve al pretore e alla sua corte di andare alla tortura e aver dalla sua bocca la confessione. Venuta la mattina, il pretore fece condurre Rosolino alla sua presenza e tolse di volontà il costituto ed egli come prima dinegò ogni cosa. Questo vedendo, il pretore comandò che fusse alla corda legato e in alto levato. E quantunque più volte Rosolino fusse stato crollato alla tortura per gli indicii grandi che erano contra lui, non però mai volse confessare, anzi, con grandissima costanza villaneggiava il pretore e la sua corte, dicendo che erano tristi, giotti, ladri, scellerati e che meriterebbero per la mala vita che tengono e per l'ingiustizia che fanno 1000 forche, affermando se esser uomo da bene, di buona vita, né essere alcuno che con verità dolersi possa di lui. Aveva il pretore, come detto di sopra, più fiate contra Rosolino, severamente proceduto, né aveva lasciato specie di tormento che non avesse provato, ma egli, saldo come ben fondata torre, sprezzava ogni tormento. Il pretore, che apertamente conosceva lui esser delinquente e non poterlo sentenziare a morte, assai si doleva. Onde, la notte, considerando il pretore la tristizia di Rosolino e la costanza grande e non potergli dar più tormento per aver già purgato ogni indizio, si immaginò di essere con la sua corte e proporre una cosa che intenderete. Venuto il giorno, il pretore chiamò i suoi giudici e disse: «Eccellenti dottori, grande è la costanza di questo reo e maggiore la tristezza sua, e piuttosto morrebbe tra tormenti che confessare cosa alcuna. Onde mi parrebbe, così però, parendo e a voi, di fare un tentativo per ultimo refugio, il quale è questo: mandare i sergenti a prender Bargetto, figliuolo di Rosolino, ed in presenza sua metterlo al tormento, perciò che, veduto il padre tormentare l'innocente figliuolo, agevolmente confesserà l'error suo». Questo consiglio molto piacque alla corte, e subito ordinò il pretore che Bargetto fusse preso, legato e a sua presenza menato. Preso Bargetto e menato dinanzi al pretore, il giudice del maleficio tolse il suo constituto, e Bargetto, innocentissimo, rispondeva di non sapere cosa alcuna di quello che era interrogato, il che, vedendo, il pretore senza indugio il fece spogliare e metterlo alla tortura in presenza del padre. Rosolino, veduto che ebbe il figliuolo preso e legato al tormento, rimase attonito e molto si contristò. Il pretore, tuttavia, assistente Rosolino, ordinò che Bargetto fosse levato in alto e cominciollo di molte cose interrogare. Ed egli, che era innocente, diceva nulla sapere. Il pretore, mostrandosi d'ira acceso, disse: «Io te'l farò ben sapere», e ordinò che fusse tirato in alto. Il meschinello, che sentiva grandissimo dolore e passione, fortemente gridava: «Misericordia, signor pretore, misericordia, che io sono innocente, né mai commessi tai delitti». Il vicario, sentendolo dolersi e piangere, diceva: «Confessa, non ti lasciar guastare, perciò che noi sappiamo di punto in punto il tutto, ma lo vogliamo sapere dalla tua bocca». Bargetto rispondeva non saper quello che il giudice dicesse, né esser vero ciò che egli improperava. Il giudice, che aveva il maestro dalla corda ammaestrato, gli fece cenno che lo lasciasse venir giù da alto a basso senza pietà e remissione alcuna. Bargetto, udendo le parole del giudice e sentendo nelle braccia grandissima passione e considerando di non poterla sofferire, dispose di confessare quello che non aveva fatto e disse: «Signori, lasciatemi giù, che il tutto chiaramente vi dirò. Lasciata leggermente venir giù la fune e appresentatosi Bargetto al conspetto del pretore della corte, affermò in presenza del padre aver commessi tutti gli eccessi contra lui imputati. Rosolino, che aveva sentita la non veridica confessione del figliuolo, ravoglieva nell'animo suo molte cose ed al fine, mosso da filial amore e considerata da lui innocenza, disse: «Non tormentate più il figliuol mio, ma liberatelo, perciò che egli è innocentissimo ed io innocente». E senza altro tormento minutissimamente confessò ogni suo delitto. Il pretore, udita di Rosolino la confessione e fattala con ogni diligenza annotare e ratificare, e desideroso di saper la causa, disse: Rosolino, tu hai sofferti tanti tormenti, né mai abbiamo potuta da te avere la verità. Ma poscia che vedesti Bargetto nei tormenti e udisti la confessione da lui fatta, mutasti proponimento e senza martorio alcuno confessasti il tutto. Io, se Dio ti salvi ed abbia misericordia dell'anima tua, intenderei volentieri la causa di questa mutazione. Ah, rispose Rosolino, non la sapete voi, signori? Disse il pretore, veramente noi non la sappiamo. Rispose Rosolino, ed io, se non la sapete, ve la raccontarò, s'attenti m'ascoltarete. Signori pietosi, umani e amatori di giustizia, voi avete veduta e chiaramente conosciuta la costanza mia nei tormenti, né maraviglia, perciò che allora voi martoravate le carni morte, ma quando voi tormentavate Bargetto, unico mio figliuolo, allora tormentavate le carni vive. Adunque, disse il pretore, tu sei morto? Essendo le carni tue morte? Non sono io morto, rispose Rosolino. Né manco le carni mie morte sono, ma vivono. Tuttavia, quando voi mi tormentavate, io nulla pativa, perché queste carni che voi ora vedete tormentavate non erano mie, ma del padre mio morto, putrido e già fatto polve. Ma quando tormentaste il figliuol mio, tormentavate le carni mie, perché la carne del figliuolo è propria carne del padre. Il pretore, intesa la causa, volse del tutto assolverlo, ma perché la giustitia non pativa che tanti delitti impuniti rimanessero, determinò di perpetuo bandirlo, non che i peccati si lieve pena meritassero, ma per l'amore che il padre portava al figliuolo. Rosolino, intesa la legger sentenzia, levò le mani al cielo e Iddio ringraziò, promettendogli con giuramento mutar vita e viver santamente. Partitosi Rosolino da Pavia, andò all'eremo ed ivi visse santamente e fece tanta penitenza dei suoi peccati che per grazia di Dio meritò di esser salvo, e di lui fino al dì d'oggi si fa memoria, ad esempio di buoni e dannazione di tristi. Fine della storia. Era già venuta al fine la favola di Cateruzza, quando la signora ordinò che con l'enigma l'ordine seguisse, ed ella con soave voce così disse: l'un ampio, fiorito e verde prato, si pasce un vago e gentil arenino, copresi di un bel manto e molto ornato, di color giallo, verde celestino, porta corona ed ha il capo elevato, da veder molto e vago e pellegrino. La coda leva e mira e il suo amor sfida, ma i piè si guarda e da vergogna grida. L'enimma da Cateruzza raccontato fu dalla maggior parte inteso che era il pavone dedicato alla dea Giunone, il quale con le sue occhiute penne di vari colori dipinte si mira d'ogni intorno e si insuperbisse, ma poscia che vede i lordi e sporchi piedi abbassa la pomposa coda e vergognoso rimane. Finito l'enimma, tutti si levorono in piedi e tolsero licenza dalla signora, promettendole nella sera sequente ritornare secondo il consueto ordine. Fine della quinta e ultima favola della decima notte. Fine della decima notte. Registrazione di Daniele Maffei.